chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Chiacchiere e distintivo. Non è che è partita proprio bene bene, eh? 21 e 56 minuti primi, la luce accesa nella... nella saletta delle riunioni della redazione. Questa cosa non va bene. Cioè, andrebbe bene se ci fosse qualcuno, ma... voi sapete che noi altri siamo affetti da un disturbo grave di autismo quando trasmettiamo, per cui se tutte le caselle non sono esattamente messe come devono essere messe, cominciamo a soffrire di impazienza, di ansia. Ci tratteniamo comunque, anche perché già il mondo, come diceva Roger Waters, sta flippando via di suo, insomma, e ci sembra che in buona parte del globo, o comunque in una parte del globo che è quella che ci interessa, quella che ci attiene, insomma, la follia, però come si dice, quella pericolosa, quella violenta, non è che ha preso il sopravvento, è proprio nelle alle, gestisce le leve del potere, come si dice. Ultima puntata per quanto riguarda la stagione 2024-2025 di 25 O'Clock a Radio Onda Rossa. Si riprenderà probabilmente estemporaneamente, forse a settembre, perché magari dobbiamo fare qualcosa, ma se no io direi tranquillamente a ottobre. Ci piace andare avanti fino a stagione inoltrata, come si dice ormai, al... al limite della chiusura stagionale di Radio Onda Rossa, che si prende una pausa di un paio di settimane per i soliti lavori di ristrutturazione, di adeguamento, di messa a norma, di sistemazione, di eccetera eccetera, di risoluzione di problemi tecnici, pausa che probabilmente verrà, se necessario, interrotta, e comunque delle, oltre alla, alla compagna automatica in muse che vi terrà compagnia con le tante repliche caricate sopra per l'estate, dicevamo, e in caso di emergenza, e purtroppo in questo periodo di emergenze sono quasi quotidiane, quindi non è detto che i microfoni della radio saranno silenti per tutto il periodo delle due settimane previste per la chiusura. Comunque, dicevamo, contavamo di fare almeno qualche rassegna stampa, insomma, in giornate particolari, quindi restate sintonizzati e sintonizzate. Noi abbiamo messo la solita sigla all'avviso di disconnessione quando sono le 22:00 in questo momento, quindi abbiamo rubato qualche tempo a prove tecniche di trasmissione elettrodo, che invece ha interrotto la sua serie lo scorso mercoledì. Quel che ci preme ricordare è che anche d'estate la radio paga le bollette, perché comunque le spese vive, quelle sono in essere per tutto l'anno, non c'hanno pausa estiva o vacanziera che dir si voglia, quindi chi è all'ascolto si ricordi che è doveroso pensare a Radio Onda Rossa, sottoscrivere anche piccole somme, comunque insomma, che ci permettono di abbiamo niente, insomma, è in diretta. Abbiamo lasciato andare avanti la sigla. Anche così, per chi ci vuole venire a trovare, cercava di trovare il momento giusto e ringraziamo tra l'altro. Dicevamo, insomma, ricordatevi sempre di Radio Onda Rossa, e per ricordarvelo noi vediamo anche un po' degli estremi, cioè www.ondarossa.info, il sito della radio dove potete trovare tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione, 25 o'clock. chiocciolaondarossa.info con 25 scritto al numero o'clock, chiocciolaondarossa.info per molestare, per darci fastidio a noi altri. E infine 06 491 750, recapito telefonico della radio. Allora, c'è pure il Caronte con noi, chissà che più tardi avrà voglia di... Anzi, cercheremo adesso di stuzzicarlo, come si dice. E lasciamo quindi Sonic Youth, lasciamo l'avviso di disconnessione, quello dai ritmi del consumo e della produzione. Beh, poi abbiamo pure altre cose da dire su sta cosa della disconnessione dai ritmi del consumo e della produzione, eh? E ce ne andiamo un po' di anni fa, un disco uscito in una data particolare. Ed esattamente il 17 aprile 2013. Il disco era pronto, però poi è successa una cosa per cui, vabbè, insomma, bla bla bla, è stato fatto uscire proprio quel giorno, perché ci sta scritto proprio. Ehi Druidon, cioè è un'invocazione, un saluto a tutti i druidi, e già qui il Caronte dovrebbe aver capito di chi si tratta. Questo album fu completato, finito il 17 aprile del 2013, il giorno che Margaret Thatcher, il giorno dei funerali di Margaret Thatcher. Essa rimase in vita per troppo tempo e la sua vita fu il nostro incubo. Poi continua con varie ingiurie e finisce: fuck off Margaret, death to tyrants. Questo lavoro ci andiamo ad ascoltare la quarta traccia del secondo disco, che si chiama Russian Revolution Blues. State of war is not so unusual that we should expect peace in our time, and yet our phony so-called professionals appeasing the suppressors of womankind. That picture of Neville Chamberlain with a paper that Hitler just signed, why did that children cross my mind? a Protestant. When I'm someone's guest, I'm never a feisty cunt. When I'm in... Vabbè, insomma, oggi abbiamo iniziato proprio con il piede sbagliato, perché difatti ci sembrava un po' troppo lenta questa, che non è Russian Revolution Blues. Ma Paradise Misland, sempre dallo stesso album, ovviamente. Quindi recuperiamo velocemente e ci andiamo ad ascoltare la traccia selezionata, che è la quarta Russian Revolution Blues. Eccola qua, finalmente. To Ho Chi Minh, says I, and other revolutions failed. The police informer's known to me, already he's in my jail. Vladimir Lenin, you got it wrong. Senator McCarthy sucked my dung. Russian Revolution done, Major Orfik, I said. Hey, Drew, don't Menshevik, I said. Hey, Drew, don't Menshevik. The game, says I, no nationalism here. Just hold your crypto-Nazi tongue, there's a suicide fly in your beer. Mao and Nixon sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. Yanks already at the Chinese border. Welcome to the same old new order. Russian Revolution done, Major Orfik, I said. Hey, Duke, don't Menshevik, I said. Hey, Duke, don't Menshevik, yow! Lenin and McCarthy are shooting it out in Southeast Asia's killing fields. Who's behind this travesty, this Cambodian atrocity? Mao and Nixon sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G-E-R. They're going into their caves now. It's all quite startling. Running around, dancing. They're allowing themselves to make a mess. It's all quite startling. It's exhilarating. It really is. They're studying their rocks, looking really up close. They're outside almost permanently nowadays. Quindi lasciamo, e questa volta ve lo sveliamo, quindi Julian Cope. The psychic refuges, those times are gone. It's the caves now. E il suo lavoro, appunto, del 2013, Revolutionary Suicide. E andiamo a invece l'esibizione della scorsa settimana qui negli studi di Radio Onda Rossa di Roberto Falconieri, che ci ricorda tanto, almeno in alcune atteggiamenti, in alcune modalità, il cantato e il suonato di Julian Cope. E quindi prodotto negli studi di Onda Rossa. La breve Junior Height, poi I Need a Car, invece registrata da studio, in studio, quindi dalla registrazione live 7 di Radio Onda Rossa della scorsa settimana, Roberto Falconieri. Che è successo? Tutto a posto. The bigger they come, the harder they crash. Nothing was left when they swept the dust. They took it and out, made a match with a trout for an elegant catch with to score. Where sons try to create what their parents destroyed. They cancel their drawings and throw away the toys. I sing in an idiom I don't really know of a country that is dead and gone. Junior I they put on you cause you too drunk. In junior I they tore the picture down. Folks walked out, paid fees for my school. I fancied to learn, but they sent me to a hole. Crosswords stink out, the priest was a girl. So I lost it years, how I don't know. The black it was laid, the deed it was done. Which sake it was for, never being told. They traced us through wheels, stately condone. It was clear the sake was dead and gone. Junior I they put on you cause you too drunk. In junior I they tore the pitcher down. Questa è I Need a Car. Position changed. I could give it up and sold. Raw runner. I need a vehicle before I say my record. I in particular I don't mean any metal. I get my share of gear, now wanna have fun. Going faster miles an hour with my radio. The highway back. I need the money I can do for God to clean up my act. I need a car to help me out of here. On this one I cry. Welcome to your Uncle 1967. Fighting with your parents next to City Hall. The kitten is a woman and you go back with Superman 3, Superman 3. And it smells like heaven, you do. Due minuti primi, pian pianino, Già che abbiamo cominciato prima, non riusciamo a carburare come si deve. Però finalmente abbiamo messo la disposizione delle luci negli studi di Onda Rossa come deve essere. Le sedie e gli appoggi sono tutti a posto, quindi ci squalchiamo adesso questo Billy Bragg. Ed è Safia Smiles, una traccia, un racconto, se ricordate, un po' di anni fa, di un video che girava. C'erano all'epoca proprio del un disco, tra l'altro, che appunto ricorda il periodo della Brexit. Insomma, c'erano queste forze di sti balordi di destra, insomma, nella Gran Bretagna dell'epoca. È un po' come in tutto l'Occidente andavano così a rompere le palle ai migranti e ai luoghi dove i migranti, che ne so, facevano le file per i permessi, eccetera. Insomma, facevano questo tipo di dimostrazioni e essenzialmente dei nazisti. Per cui appunto, mentre ce l'avevano con la gente con la pelle nera, una ragazza, Safia, che aveva la pelle nera e un gran sorriso, gli va sotto. Già era il periodo in cui si giravano i video e si mettevano sui social, quindi diventò virale questa roba di questa ragazzetta che andò lì e andò a ribattere punto per punto le sciocchezze, le stupidaggini che dicevano questi disturbati. Molto tatuati, ma con ben poche idee anche sbagliate. Il tutto lo fece sempre con un sorriso smagliante, insomma, che è anche disarmante, per cui Billy Bragg decise appunto di fare e di incidere questa Safia Smile. Ed eccola da capo, quindi Radio Onda Rossa 25 o'clock. Angry white men dressed like Elmer Fudd, shouting something about soil and blood. A woman of color steps out from the crowd and does something to make us all proud. Just like Victor Hugo told, to love is to act, and her act was bold. Bold as love, she made her stand, and with a smile to power man. Play Nazis marching in file, Hitler's haircut is back in style. Resistance on the streets of Birmingham, and with a smile she disarms the man. Yeah. Oh, don't you know, we come together when minuti primi, lasciamo l'album del 2017, l'EP del 2017 per quanto riguarda Billy Bragg, e andiamo invece nel 2022, se non andiamo errati. But too many have invested in this outcome, they simply esatto for it not to come true. Ne è uscito uno più recente, 2024, addirittura 2025, per Dropkick Murphys da Boston. Now everyone seems willing to lend credence, and truth is so devalued, it's going for a song. Che dovrebbe essere la continuazione di questo Steel Machine Still Kill Fascist. Markets to account. Disco interamente dedicato e con i testi di Woody Guthrie. Counts can be counted, not everything that can be counted counts. Cantautore girovago, songwriter, come si dice, degli Stati Uniti degli anni 50 e 60. People have had enough of experts and their inconvenient fact. Lavoro che si apre proprio con una traccia. You really won't tell you exactly who it is. Let's take. Che è una lirica di Woody Guthrie. All opinions are equal. In the free market of, che si chiama 260 upside down. The truth is nothing more than an opinion that's gone at the mo- 2-6 rigirati al contrario. Cheers. E ritorna un po' al everything that counts can be counted. Al tema di Hey Joe, diciamo, in questo caso Hey Joe raccontava l'omicidio di una donna, o quello che oggi avremmo definito un femminicidio. Not everything that can be counted, count. Invece questa song di Woody Guthrie raccontava l'omicidio per una donna. Ed è il racconto di quest'uomo che, insomma, sta in prigione, ricorda. There isn't really any room for dreamers. Prigione già da tempo, e ricorda appunto che il giudice gli ha detto no. The mark. Sono 99, sono proprio 99, doppio 9. Except for anni per omicidio, te devi fa. Price. 6-6 upside down, 66 rovesciato, doppio 6 rovesciati. E questo è appunto Drug Pimp Muffins che dedicano il lavoro a Woody Guthrie. Dai, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time I've laid in jail, and I still got 99. You see, I set myself in a gambling game, and I couldn't half play my hand. I was thinking about that woman I loved run away with another man. Run away with another man, run away with another man. I was thinking about that woman I loved, run away with another man. The cards come round the table, Lord, I had such a worried mind. My stack of gold I wasted away, and I lost about 99. I lost about 99. Boys, I got me a big 44. I was thinking about that woman I loved that I'd never see no more. That I'd never see no more. That I'd never see no more. I was thinking about that woman I loved that I'd never see no more. Again, he run away, left her behind. I laid him low with my old 44, and the judge gave me 99. The judge gave me 99. The judge gave me 99. I laid him low with my old 44, and the judge gave me 99. The jury said you'll have to pay. The clerk, he looked around. The mean old judge, he spoke my number, Lord, to upside down. Two sixes upside down. Two sixes upside down. The mean old judge, he called my number, Lord. Two sixes upside down. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time I've laid in jail, and I still got 99. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time. Jail, and I still got 99. Two sixes upside down. Two sixes upside down. Two sixes upside down. Fotografia di una città scattante 10 minuti dopo l'alba. Fuochi da campo accesi, uomini in K-Way logori. Scooter sfrecciano come libellule verso lavori impossibili. Venditori di pesche e di peroni arrancano stremati verso il proprio alveare. Giovani nulla facenti rigettano quello che resta della notte. Furgoncini edili, barbe sfatte e pesi al centro dello stomaco. Due ore dopo, un po' più al centro, mille teste uguali come i grani di un rosario sulla linea del treno. Entra pure, mettiti là, capisco, ti faremo sapere. bere. Monta sullo scooter e riparti attraversando la città. Oggi abbiamo lacrime e sangue al posto di burro e marmellata. Va bene lo stesso? Ho provato a dire alle persone che abbiamo sbagliato strada, ma non vogliono ascoltare, non ci provano nemmeno. Meglio una grande gabbia che un piccolo mondo libero. Abbiamo palazzi vuoti e gente congelata. Abbiamo pizza nel cassonetto sul retro e un esercito di morti di fame. In questo deserto abbiamo un secchio di sabbia nera trafilata al bronzo di Scozia, ma l'acqua la dobbiamo chiedere in ginocchio e non provare a dirgli che abbiamo sbagliato strada. Gli puoi parlare del tempo, dell'esecutivo che hanno votato che affronta la formazione di un governo in diretta su Canale 5. Gli puoi parlare di un mondo catodico indipendente da quello reale, dove le Barbara D'Urso sono i buoni, gli Antonio Ricci i sovversivi e le patrie galere stanno negli studi di fuori. Ma non gli chiedere di aprire un libro o di pensare prima di parlare. E soprattutto, fratello, non gli chiedere un pezzo di pane quando hai fame o un rifugio se ti senti in trappola. Potremmo pure conviverci, come potremmo andare via del resto. L'ironia di tutto questo è che forse l'ironia di tutto questo non esiste. E adesso dormici sopra. Buonanotte. Ho perso un occhio, c'ero bambino. Sta lì vicino, mi serve preferire, non l'avranno mai, non ho apertura né, mi porta solo qua. Questo era Pat Lacon dal disco di un certo anno che non ricordiamo assolutamente, comunque dovrebbe essere 2019, esatto, 2019 invece lo ricordavamo assolutamente, semplicemente perché Pat doveva venire a presentare questo libro, questo disco alla festa di Onda Rossa, chissà che non abbia anche da presentare un libro prima o poi. E buon Simone. Fratello, apri gli occhi, non capire male. Sì, la vita è questa, ma c'è una bellezza da rivalutare. Dicevamo, doveva venire a presentare questo discone alla festa della radio del 2019, ma poi proprio il giorno che doveva venire a suonare gli è venuta, o il giorno prima, insomma giù di lì, gli è venuta l'influenza, niente, ci ha saltato il concerto e c'è progresso, però c'è rimasto il disco Cinema, che iniziava con questa prima traccia senza sapere con la storia del mondo, e che diceva l'ironia di tutto questo è forse che l'ironia di tutto questo non esiste. E già, perché poi appunto leggendo le prime pagine dei giornali, de carta online, televisivi, tutto quello che vi pare, le cose gridate. Un'avventura per mare, 492, l'inizio dell'Europa imperiale. Dici che me importa, ma le scarpe che porti sono macchiate di sangue umano. Perché è talmente surreale che appunto noi pensiamo sia uno scherzo. Che ci sia un'ironia dietro, e invece questo non è, non c'è proprio alcuna ironia. Nato tra gli operai. Fratello, ho visto cose magiche. Nel frattempo vediamo Caronte che sta producendo comunque una playlist di tutto rispetto. Un cane arrabbiato nella peggio nottata. Vabbè, scritta piccola, non siamo in grado di distinguere quello che c'è scritto, però vediamo che è lunga e sta elaborando, quindi fra poco gli lasceremo. Nella vita vengono smontati pezzo su pezzo, pensaci adesso, leggi la storia per capire te stesso. Sapere gli lasceremo i comandi e magari riusciremo anche cominciare. Alternarci. Lasciamo parte e lo splendido lavoro, abbiamo sempre detto, gliel'abbiamo detto in tutte le occasioni, che Cinema è un gran disco. che potrebbe funzionare un po' per tutte le età e per tutte le latitudini. Cantato di seguito, suonato alla maniera così del con le ragazze a passeggio, la Roma in vantaggio, io ti parlo di filosofia. Del migliore, della migliore tradizione cantautorale italiana degli anni 80, fine 70-80, insomma. Diciamo, lasciamo Pat, la capitale o le sue radici che affondano invece nei Monti Sabatini. E ci spostiamo negli States. E 45, meno male che non ho alzato il microfono in sincrono col bestemmione che girava qua. Diciamo, da un certo punto di vista, meno male, da un certo punto di vista, peccato, forse non riuscirai mai a trasmettere stasera. Beh, a una certa età cominciano le difficoltà motorie, anche le più semplici. Vabbè, ci stiamo ascoltando Jack Lawrence alla basso, alla chitarra, al sintetizzatore, ai cori. Patrick Keller alla batteria, le percussioni e i cori, Jack White alla voce, alla chitarra, ovviamente al piano, al sintetizzatore, Brendan Benson alla voce, alla chitarra, le percussioni e all'armonica, Dean Ferritta al piano, sintetizzatore, organo e chitarra, Joshua W. Smith ai cori e all'organo, e infine Lilly Mai Rischi al violino e la sorella probabilmente Scarlett Rischi al mandolino. Che detti così non significa niente, invece sono dei Raconteurs da Nashville, una di quelle creature di Jack White. Ti alzo il microfono? Alzi il microfono? Eccolo, aspetta. No, ecco, no, no. Eccolo. Mossi, si sente. Mossi, vai. Adesso si sente. Intanto va detto che c'è un microfono, il secondo microfono qua, che ha, come dire, il piedistà. Un beccuccio. Che ha un bullone sporgente che sto continuando saldato a urtare, diciamo, da quando sono. Sì, andrebbe, diciamo, portato più avanti il microfono per fare in maniera tale, Tanto riusciamo. È già tanto, esatto, che non finiamo il pronto soccorso stasera. Sì, diceva l'età sopravanza. La scaletta, che non è una scaletta, diciamo, una selezione improvvisata di brani. Sicuramente del passato, alcuni classiconi, alcuni un po' meno, però roba sicuramente che avete già sentito, però è una selezione di quelle che ci piacevano molto, insomma, parecchi anni fa ormai, penso. Ma tanto quello dobbiamo, cioè, decenni. Ormai siamo in quella generazione e quell'età che dobbiamo raccontare le cose del passato e, diciamo così, che condividere tristezza. Condividere le esperienze passate e raccontare il mondo che fu, insomma. Che tristezza, quindi. Perché questo qui non è che ce ne troviamo a nostro agio. Bene, quindi detto ciò, al solito una cozzaglia di brani e sonorità, generi di tutti i tipi, che però era la cosa che l'insalatona, insomma, una delle cose che ci piaceva fare molto anche col Nano, insomma, ormai diversi davvero tanti anni fa, e questi sono brani che, insomma, con lui ascoltavamo e riascoltavamo. Quella c'era la famosa frase, no? Saltiamo da Paolo in frasca. Esatto, saltiamo da Paolo in frasca, e questo ci dava il passaporto per fare il cavolo che volevamo, pur sapendone poco, insomma, di quello che mandavamo in onda, e rompendo quella che normalmente è la semantica di qualsiasi conduzione radiofonica, sì, no? Che vorrebbe, cioè, poca retorica, semmai ce ne sia stata, ma insomma sì, era un po' questo era più piacevole, diciamo, ascoltare le selezioni piuttosto che pontificare su generi, approfondimenti, ricerche, nomi, narrazioni, cognomi, artistiche, sì, nomi, esatto, e cognomi che ci imbrigliano. Quindi, detto ciò, io ovviamente non ho seguito minimamente l'andamento della più parte. No, vabbè, abbiamo mandato essenzialmente roba cantautorale, ballate, roba cantautorale, vabbè, songwriter. Allora iniziamo a tema, esatto. Qua, diciamo, sì, sicuramente una ballata, direi abbastanza classicona, era un Eddie Vedder illuminato, insomma, di parecchi anni fa, quello che poi ha suonato la colonna sonora del film Into the Wild, che, insomma, è stata un bel momento di cinema, credo io, e insomma la colonna sonora era altrettanto bella. Qui era un Eddie Vedder praticamente solista in versione acustica, almeno in questo brano, che si intitola Hard Sun, la conoscerete sicuramente, però era una cosa bella che forse si aggancia abbastanza bene a quello che ascoltavate. Vai! Dog in the grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. Bene, questa era, abbiamo detto, Hard Sun nella versione di Ed Vedder, nella soundtrack di Into the Wild, era il 2007. E, traccia originale, sì, è di un gruppo che si chiamavano Gli Indio, in realtà era un one man band, Gordon Peterson, canadese. Una cassetta che tra l'altro mandammo molto prima, era una, io ho la cassetta, e sicuramente è una traccia che ho mandato in epoche antiche, perché veramente è un disco degli anni 90, forse 80 direi, 80. È probabile. Sì, si chiamava Big Harvest l'originale. E traccia rimasta sconosciuta perché chi so cagava Indio, il disco Big Harvest dell'87, adesso non... Big Harvest tra l'altro rievoca, insomma, dell'89, titoli ben più importanti del passato, ancora più passato. Certo, certo. Bene, bellissima e direi anche tragica ballata, perché insomma il film non finisce proprio bene. però è una bellissima storia. Siamo passati, già la sentite in sottofondo, abbiamo fatto un salto ancora indietro di 13 anni, nella metà degli anni 90, erano forse al meglio della produzione, ovviamente parliamo degli Alice in Chains. Questo era un album, anche questo, ultramandato nella Next Time, diciamo di, appunto, degli anni 90. Il titolo del brano è I Stay Away, 1994, lo sono Alice in Chains. Certo. Eravamo alla metà degli anni 90 e ci rimarremo peraltro per molto, perché non so se per un caso o magari per affinità Però ho visto che insomma tra i brani che ho selezionato praticamente il 90% sono proprio della metà degli anni 90, con qualche eccezione più recente e una sola eccezione invece che proviene dagli anni 80, nel periodo della neopsicadelia. Comunque quello era un momento insomma in cui mi ricordo andavamo in diretta e ogni settimana uscivano tonnellate di album, un periodo molto molto molto interessante, non solo per la fase grunge che pure ha prodotto delle cose interessanti, altre più commerciali, ma in genere insomma era un fiorire costante. Secondo me è più una questione di banalmente di sintonia con il mezzo di comunicazione cioè il mezzo di trasmissione della musica. Oggi escono miliardi di cose, è impossibile seguirle, è umanamente impossibile seguirle, cioè se ti metti sulle piattaforme anche quelle ma non credo abbia nemmeno senso più di tanto, esatto, sì. Non ha senso, c'è veramente di tutto. All'epoca invece era ancora una dimensione umana, cioè se te mettevi lì, insomma, certo, avere a ascoltare tutto quello che usciva era, perché pure lì era un'impresa ciclopica impossibile e anche stressante. Però se andavi in negozio dei dischi, no? E leggevi qualche recensione sulle varie fanzine che c'erano, metà anni 90 già ci poteva cominciare a essere, diciamo che il bello è che si ascoltava qualche cosa su internet, esatto. Si acquistavano, si ascoltavano, non si ascoltavano online, bisognava dedicare del tempo, andare al negozio, dedicare del tempo all'ascolto, scambiarsi opinioni dal vivo, quindi anche le chiacchierate o l'ascolti che si facevano in radio erano importantissimi, no? Perché poi appunto ascoltavi una roba e da lì partivi per andare magari a trovare il lavoro solista del batterista di quel gruppo, no? E di lì insomma il gioco era fatto. Sì, una ricerca assolutamente più genuina e soprattutto oggi è un altro lavoro che portava subito al dibattito. Qui invece oggi bisogna prima riuscire a fare una selezione importante, insomma, tutta la roba che c'è in giro. Non c'è bisogno, poi... nel senso lo fa la IA, cioè te utilizzi in qualche piattaforma per fare una selezione, poi te vai a mettere, vai a variare, vai a sì, cosa, esplorare. Cosa da un punto di vista formale detestabile, ma sul piano pratico può aiutare, diciamo, mettiamola così. Sì, è comunque appunto il passaggio fra artigianato e l'industria, dai. Va bene, allora, altra ballata, sempre esattamente lo stesso anno, 1994, anche qui una versione soundtrack, una ballata però ben più lisergica, perché si tratta dei Cowboy Junkies, la sui gente Cowboy Junkies, ma ripeto, nella versione appunto soundtrack del film Natural Born Killer, che pure vedemmo al cinema. Non solo c'è metà, esatto, ma non solo metà anni 90, quindi anche colonne sonore. Yes. Vedi, beh, c'è un altro molto. Punto di c'era un sacco di affinità tra il cinema anzi tante cose si scoprivano proprio nelle colonne sonore. Esatto. Cowboy Junkies. The world coming to an end, man. Angels, Mickey. They're coming down for us from heaven. And I see you riding a big red horse. Dicevo, attenzione, perché la voce femminile che ascoltate in sottofondo è proprio quella di Juliette Lewis, solo cantante ma anche attrice, proprio protagonista assieme a Woody Harrelson di quel film. Quindi vai, la mandiamo da capo. Da capo. The world coming to an end, man. I see angels, Mickey. They're coming down for us from heaven. And I see you riding a big red horse. And you're driving the horses, whipping them. And they're spitting and frothing all on the mount. And they're coming right at us. And I see the future. There's no death. Cause you and I were angels. I love you, man. I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Anyone who's ever had a heart Ebbene, era appunto Juliette Lewis e Cowboy Junkies nel film Natural Born Killer. Era il 1994 e visto che mancano ancora un paio di ballate, rimaniamo esattamente nello... E questo è originale? Questo è qua sotto, no? Questo... Hai ripetuto? No, pensavo che era originale di Velvet Underground. No, l'ho semplicemente rimandata da capo. E dicevo, un classicone invece questo sicuramente non si può non riconoscerlo, però è un album anche questo, insomma, sul quale abbiamo fatto solchi, per quante volte l'abbiamo fatto girare in vinile sui piatti. Stiamo parlando di Rem, Eponymous, Can't Get There From Here, un brano, insomma, ripeto, che conoscerete sicuramente ancora, 1994. Finale un po' ingannevole, finale un po' ingannevole, tra l'altro un brano, come dire, un po' contaminato dal beat, una roba strana, però era un po' tipico dei Rem, abbastanza variegati. E tra l'altro Mike Stipe adesso fa il signorotto a New York, insomma, fa colazioni nei bar di Manhattan, intervistato, insomma, da testate importanti. Vabbè, certo, poi dopo loro ci hanno avuto, sono esplosi proprio, però l'abbiamo un po' raccontata sempre la storia dei Rem, perché detta oggi è come dire, che ne so, che parli di qualcosa, che ne so, di Maradona, no? Cioè, nel senso, no, capì? Cioè, c'è stato tutto un periodo della storia in cui i Rem pubblicavano, che erano gli anni 80, pubblicavano quattro dischi più o meno, quattro dischi, e Nel silenzio, diciamo, nella come si dice? Nell'indifferenza. Nell'indifferenza più assoluta del mercato, degli ascoltatori. Comunque poi tutti belli, fondamentalmente, insomma, sì, dischi sì, abbastanza. Che non avevano nulla da invidiare a quelli successivi. Poi, però, appunto, c'è la Out of the Time, essenzialmente, esplodono, diventano mainstream e via, insomma. Vabbè, io direi che si è fatta una certa e questa è Onda Rossa, state ascoltando sì, 25 O'Clock, ovviamente. Avrei voluto fare adesso un tuffetto ancora nel passato invece della neopsichiatria degli anni 80, ma insomma direi che è il momento di darsi una sveglia. E vuoi che vado io, se no facciamo una pausa. Una sola cosa per rompere definitivamente. Perfetto. Perché... questo è un pezzo che io manderei, diciamo, per ore, ma solo i primi 20 secondi. Perché facciamo così: metti, taglia, fai il loop dei primi 20 secondi e facciamo un paio d'ore di. Se esistesse, uno direbbe: Dio benedica il chitarrista dei Crunch, perché ha fatto questo riff. È una roba devastante. Ce lo ricordiamo, abbiamo capito. Alza il cursore, per favore, alziamo, perché se no non si sente bene. Attenzione: alziamo il cursore a i primi 20 secondi, secondo me, sono irripetibili. Cioè non c'è un pari. Va bene. Onda Rossa, 25 O'Clock, Crunch. Che ti devo far trillino per ripetere? Assolutamente. Vedi quando non si hanno. Devo mandare io questa. Dai. Vero? No, io ero pronto però col sottofondo. Quindi... Ah, ok. Si puoi andare. Va bene, allora iniziamo col sottofondo e commentiamo sempre i granci perché non. Questo quello che dovevamo mandare, però ci serve come base. Allora parlavamo di Crunch, ci abbiamo avuto pure un rapporto noi con però non ricordo il nome del. No, non ce l'hai, parli ecco. Col mio. Sì, mi sa che abbiamo organizzato anche una serata. Non mi ricordo. Poi fece il progetto Barrato, ma non mi ricordo come si chiamava. E tra l'altro su internet si sono perse le tracce. Grande personaggio, tu dicevi veniva da Viterbo, a me mi sembra da Ostia, però insomma intermedio potrebbe essere, che ne so, boh, da un Frosinone. No, vabbè, sì, perdiamo assolutamente colpi. Adesso sì, rimarremo in questa aurea di incertezza, di indeterminazione, perché sono andato a pescare un po' di robe che non sentivo veramente da anni, messe negli scomparti più periferici della discoteca. E niente, ho tirato fuori delle cose che non mi ricordo proprio, cioè veramente di 20 anni fa. Questa no, questa è del 2007, loro sono Anson Farts, erano editi da Sub Pop, che era solida all'epoca mandarci comunque i demo, infatti vedi sono tutti dischi senza copertina qua in radio, che noi gradivamo parecchio anche perché c'era molto materiale interessante. Era un duo da cui andiamo ad ascoltarsi la terza traccia, che si chiama Anson Farts Hate This City. Come non essere d'accordo con loro, quindi Anson Farts, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Partirà, sì o no? Partirà. Canta un po' perché partirà. Qui prima, si è impallato tutto il disco, prima andava. Eccola. Che è questo bel synth pop, eh? Darkening screen, pump in my heart, it's just a machine. Oh, there was home. Oh, there was home. A sinister lean, we haunted her staircase where small ghosts had been. We knew that heaven was stretched out and wide, pinned to the sky, pinned to the sky. Oh, there was home. It was home. 23:33 minuti primi, quindi dopo Hanson Forts che venivano da Montreal, siamo passati invece a un decennio prima, perché Hanson Forts era un lavoro del 2007, siamo passati a un decennio prima, cioè il 1996, uscita di questo Camp Crean, lavoro per i britannici Tony Halliday e Dean Garcia, in arte Curve. Inizialmente prodotti da Dev Stewart degli Eurythmics, si spostarono appunto verso atmosfere più drone. Quasi breakbeat per quanto riguarda questo lavoro. Primi anni 2000 invece ritorniamo negli States, se non andiamo errati, però poi ve lo confermiamo, perché diciamo appunto sono cose che non mandiamo veramente da anni. Lilies loro si chiamavano. Con una bella immagine, diciamo, belligerante, bellicosa, di truppe orientali, cinesi, coreane, non si capisce niente, appunto, che non si capisce bene, che espongono il cartello Lilies. Disco che si chiamava Everything Wrong is Imaginary. E noi andiamo ad ascoltare proprio la title track. Di questo lavoro, che è la ottava, Everything Wrong is Imaginary. Lilies, Radio Onda Rossa. stiamo parlando di Lilith, quindi provenienti da Filadelfia. Praticamente si tratta della band di Kurt Ashley, che è l'unico sopravvissuto di tutti i vari avvicendamenti della band. E di quelli, insomma, che la vogliono dettare, sempre rimasti nella scena indipendente, fuorché per un episodio di una traccia che divenne la colonna sonora di uno spot dei Levi's, e quindi praticamente fece un sacco di soldini probabilmente con questo, ma questo non turbò comunque il percorso dei Lilith, che rimasero sempre nel circuito così indipendente del sottobosco statunitense. Cioè, a un certo punto, appunto, proprio intorno all'inizio degli anni 2000, una serie di band statunitensi provenienti dai più diversi angoli del grande paese nordamericano, grande per estensione ovviamente, non siamo qui assolutamente a tessere alcuna lode, semmai peste e corna, raccontiamo dei suoni e delle musiche di quel grande territorio. Dicevamo, all'inizio degli anni 2000 ci fu la British Invasion, cioè un sacco di band statunitensi si mise a suonare come fosse British Pop negli Stati Uniti, che erano sempre stati lontani da quel tipo di sonorità. Lilith furono fra costoro. Però mantenendo sempre la forza e personalità di Kurt Ashley, che comunque mette la sua impronta avanti a tutto, con anche tocchi di genialità. Blink, altro lavoro, non Blink 182 più celebre, ma solamente Blink. Altro lavoro di cui non sappiamo praticamente nulla, si chiamava, era un promo, diciamo, quei piccoli lavori di quattro tracce, Going to Nepal, poi un remix anche caruccio dei Going to Nepal. Mentre, diciamo, l'originale non è poi un granché, invece molto figa è la terza traccia, I Good Real Groovy. Blink a Radio Onda Rossa 25 O'Clock, nulla di più se non un pezzo di plastica con incise sopra le tracce. 23:47, quindi questi erano i Blink e abbiamo scoperto ora che venivano dall'Irlanda e quindi ne va dato loro merito. E a questo punto altro giro di boa, direi. Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, 25 o'clock ai controlli, 06491750 per chi abbia voglia di disturbarci. Ma microfono aperto, non me l'avete detto niente, sorpresina. Bene, io riprenderei più o meno da dove avevo lasciato, cioè eravamo nella metà degli anni 90, avevamo già fatto insomma un bel salto di sonorità, avevamo ascoltato i graziosi Crunch, però torniamo oltreoceano e quindi ancora 1995, gli Almighty, il titolo è Branch, l'album appunto sempre del 1995, Crank. Yeah. Esatto. E t'ha fregato pure questo. Me lo dovevi dire, ma questo sì, questo poi è... Beh, ma allora la memoria a che serve? Ma comunque, ma c'è qualcuno che ancora risuona Noise? Che bello che era il Noise. Beh, Helmet, sì, ma non come Zenigheva. Sì, sì, però altri tempi, sonorità simili ci sono anche oggi, ma insomma, decisamente su un altro piano. E bene, prossimo brano, rimaniamo esattamente nello stesso anno, cioè 1995, ma non poteva a questo punto mancare un salto nell'industrial più profondo. E come sempre noi quando ricordiamo insomma gli indimenticabili Frontline Assembly non possiamo che ispirarci a Electrodo, insomma non c'è dubbio, e il brano è Epidemic. We'll be right back. Bene, non so te, però io non riesco a non trovarci una vena, diciamo, di ispirazione proveniente da i Nine Inch Nails, Trent Reznor, in questo tipo di industrial. Non hai il microfono aperto. Però, dato che è così, come si dice, passaggi di associazioni di idee per associazioni di idee, tu sei mancato alla festa della radio. Ahimè, sì. C'è stato un finale di Elettrodo proprio al compleanno, il 23, che dava sul 24, con brindisi finale, in cui, insomma, diciamo, il ragazzino qua del mix, dato da fare. Che viene e quindi, per noi, si è espresso a grandi livelli con questo tipo di sonorità proprio. E quindi ho ancora di più la bava alla bocca, ma è successo. Tra l'altro, penso ai Frontline Assembly anche come forti ispiratori dei gruppi successivi tipo Birmingham Six, Corporate Avenger, Rammstein stessi, insomma c'è veramente, insomma, un pezzo di storia dentro questi album. Ministri, vabbè, Ministri sono Ministri. Con loro più o meno, esatto, coevi, esatto, coevi. Esatto, assolutamente. Io l'ultimo brano che manderei per questo ennesimo giro di boa, è un classicone, però non riesco, insomma, a non farlo. Si tratta di ancora una volta la rabbia, diciamo, contro le macchine. Era qualche anno prima. E quella è l'altra cosa, perché nessuno fa più un grande crossover invece insieme al Noise, eccetera. Sentiamo. No, invece no, stavo sentendo proprio Martis durante il suo spazio, che ha mandato alcune tracce sudamericane di crossover che spaccavano veramente. Sì. Attenzione. Basta cercare. Ma la domanda è, poi bisogna vedere, insomma, sul mercato tira ancora questa roba, perché poi alla fine ma le scelte sono quasi sempre. No, ma non c'è più il mercato, cioè ormai è appunto. Poi ti ricordi nell'intervista che facemmo ormai due lustri fa, abbondanti, tre lustri fa, direi, a John Lennie. È proprio questo ci disse, cioè non è che adesso, non è che noi ci dobbiamo presentare, uno deve produrre e poi devi fare in maniera che le persone ti vengano a cercare, che è un po' è un discorso, diciamo, abbastanza lungo e complesso, perché ci ha attanagliato per anni. E poi tra l'altro comunque vuol dire che appunto un passaggio magari di un tuo brano su una pubblicità, una colonna, un film, qualcosa che accende la scintilla da un signor nessuno che produce, appunto, che è un po' quello che dicevamo prima, no? Da 20 anni musica diventa il numero uno per un periodo, eccetera, e poi casomai ne dimenticatoio, oppure appunto ti vendi al mercato, ecco. Bene, allora, ultima canzone, dicevamo, con l'ultimo brano per questo giro di boa, 1992, è la bomba dei Rage Against the Machine. La rabbia contro le macchine, dai. Oh, And don't do this to me. Won't someone change the record? Seems to be broken. But then I hear this song before. Is it all this shit I'm smoking? It goes fast. Eccoci. Notevole, direi, eh? Tanta roba, sì. 2005, come diremmo noi vecchietti, ormai non ho sentito bene, Didn't Air Your Right, terza traccia per questo lavoro dei Dead Fred Bukowski. Vi invito tranquillamente ad andare a cercare notizie loro o come gruppo o dei vari componenti del gruppo stesso. Ci sono le notizie riguardanti questo disco che si chiamava Land of the Root, ma null'altro. Cioè, loro hanno fatto questa roba tutta bella, un disco, una grande apparizione, sì, diciamo. Una grande apparizione. 2005 basta, finito così. Forse c'è qualche notizia di qualche band parallela di qualcuno, ma poca roba. Altra perlina, diciamo, più recente, anno 2022, questo è il loro primo lavoro, credo, o secondo, forse ce n'è un terzo, King Anna, sempre isole britanniche. Dead Fred Bukowski comunque erano scozzesi, per chi è amante della geografia. lavoro del 2023 che si chiama I'm Not Sorry I Was Just Being Me, da cui ascoltiamo All Being Fine, Va Tutto Bene, che era proprio quello che dicevamo, è la cosa più fastidiosa che si è potuta sentire negli ultimi anni. Minuti dopo la mezzanotte, All Be All Fine. Proprio qualche puntata fa riflettevo su, penso che era la prima scena dell'odio, quando c'è è la storia dell'uomo che cade dal grattacielo e dice fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Esatto. Io credo che la nenia prima dell'atterraggio. Io credo che questa roba qui è esattamente la fase storica che stiamo attraversando noi. Descrive proprio in maniera adesivo su parete proprio. Cioè. Sì, per quanto il volo possa costituire un loop, diciamo, psico-emotivo, alla fine, diciamo, c'è un atterraggio. C'è un atterraggio e c'è la coscienza pure che questa roba qua è temporanea. e quindi boh, insomma, ed è un, insomma, uno che sta precipitando e per morire è un po' una situazione, come dire, problematica, imbarazzante. Allora, due tracce ancora. Questa la rimandiamo a capo, perché forse proprio questa situazione, questo imbarazzo in cui ci troviamo, il nostro capitalismo che sta così vorticando su se stesso negli spasmi di una fine che potrebbe essere di supernova e quindi esplosione globale, appunto, e c'è l'atterraggio, oppure potrebbe essere uno spasmo, facciamo la metafora delle stelle, delle nane bianche che invece pian piano si spengono e rimane un lontano ricordo di materia scura nell'universo, di qualcosa che c'è stato e che mai più ci sarà. Senza escludere la considerazione del fatto che in realtà poi concedersi un volo, concedersi una sospensione psicomotiva, come dicevamo, in realtà è un privilegio. C'è chi purtroppo è già atterrato, certo. E chi non ha più. È un po' la storia, un po' la storia di Next Time e di 25 O'Clock, cioè 20, almeno nel Next Time prima, appunto, una forma non così esplicita, ma che era quella. E poi 25 O'Clock, l'ora rubata ai ritmi del confine del consumo e della produzione, è proprio questa qui, la consapevolezza del volo, solamente che sta cosa ormai è diventata palese ed evidente. Allora, dicevamo, per chiudere il pensiero che stavamo facendo, appunto, forse la fuoriuscita è proprio questa. Disco del 1976, se non andiamo per andiamo errati, stiamo parlando di Sumé, la band, ce ne stanno diverse, 50.000 abitanti, 55.000 tutta la Groenlandia. Sumé è una banda degli anni, è una band degli anni 70 che appunto suonava le cose che si suonavano negli anni 70, quindi progressive, psichedelia, ballads, eccetera eccetera. E questa è Inuit Nunat, Lands of the People. Inuit è proprio, significa gente, uomo, so anche l'Inuit. Inuit è la maniera con cui loro chiamano se stessi, quindi si intende uomo, e Nunat è appunto luogo, e quindi tradotto così in inglese è Lands of People, la terra degli uomini, ed è questa che stiamo ascoltando da sotto, la mandiamo da capo, dai. Nord Irlanda, dicevano Sinn Féin, noi stessi. Kaina sua jigi babu nunat uguna yukavu bisu sutat a top babu bisan kafi galugi kingulita Sarat Siulita Atata Inuit Nunagat Digisabat Kapukuku Digisabat Kapukuku Bigi sabat akumu Jigi kuyatu At luna Ikullu inu sabji Itamatu σαγάς πουλάς πιούτα. 30 minuti dopo la mezzanotte e abbiamo finito proprio sul fricchettone spinto. E anche il nome è Soul Flower. Soul Flower Union, provenienti dall'isola di Hokkaido in Giappone. Che ci tengono a dire che il nord delle isole giapponesi, specialmente Hokkaido, le isole Kurili e Shangalien, per capirci la zona dove oggi c'è stato, un po' più a sud dove c'è stato il terremoto oggi della Kamchatka, erano formalmente le terre degli Ainu fino ai tempi moderni. Dal XVII secolo praticamente hanno combattuto contro i trattamenti inumani di Tangawa Shungata e de Mustang Clan per proteggere la loro autonomia etnica, ma appunto poi nel 1869 il Meiji Government proclama Ainu, Moshir, Hokkaido e le isole Kurili e altro come territorio del Giappone. Quindi un momento di assimilazione che portò anche quella forma lì di imperialismo, portò a fondare l'impero giapponese, appunto ai danni di una serie di popolazioni che vivevano in zone pressoché poco abitate, non disabitate perché c'erano loro, però poco abitate, e quindi la girandola del colonialismo che comunque si perpetua e si ripete in ogni angolo del globo. A proposito di quello, andiamo a leggere perché qui appunto c'è quella parte un po' divertente e poi vi salutiamo. Mattarella duro su Gaza, c'è ostinazione ad uccidere. Cioè, dopo quanti anni ormai, 7 ottobre del 2023, siamo nel 2025, si è accorto che c'è un genocidio in atto. Va bene, la stagione è finita, noi ci risentiamo appunto fra un po' di settimane, sicuramente in quel di novembre, in quel di novembre, sì, ma poi verosimilmente a novembre, in quel di settembre, più probabilmente a ottobre. Ricordiamo vabbè perché bisogna ingrandire, l'ha scritto troppo piccolo, la Radio Onda Rossa a Roma messa a fuoco. Che è la chiamata fotografica aperta a tutti per esporre le tue foto il 4-5 ottobre al Festival Interferenze Costruttive organizzato da Radio Onda Rossa, al centro sociale occupato e gestito La Torre. Partecipa inviando te fotografie orizzontali a 4 a ondarossa@ondarossa.info. Come oggetto il tema è Roma messa a fuoco entro e non oltre il 5 settembre 2025, quindi aspettiamo le vostre fotografie in formato A4 orizzontale. E quindi vi diamo l'annuncio del 3-5 ottobre 2025, arriva il primo festival d'edizione, la prima edizione del Festival Culturale Onda Rossa Interferenze Costruttive, ospitato dal Centro Sociale Occupato Gestire La Torre. Sarà un'occasione di incontro e confronto oltre i microfoni della radio per raccontarci e confrontarci con le realtà in lotta e le compagne, compagni, compagna, su tutto quello che vi pare, prenderci un tempo di riflessione collettiva, immaginare insieme pratiche di resistenza, laboratori, tavole rotonde, presentazioni, mostre fotografiche e molto di più. Vi faremo sapere, intanto segnate le date, poi vi saremo, faremo sapere poi tutto il programma del festival, come si svilupperà, eccetera, eccetera, eccetera. Non parte il sotto. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica di Muse, si riprende che repliche e bizzarre selezioni musicali, si riprende domattina con la rassegna stampa, letture delle prime pagine della rassegna stampa cittadina, i redazionali, poi la replica di Impatto dalle 12 alle 13.40, tutta scena cinema 13.45, 14.45, disabilità punti di vista, penso che vada una replica, le schiene del sol, può essere che ancora magari un qualche cosina di partecipazione ci potrebbe essere, tabula rasa, penso pure lì ha chiuso, quindi una replica, e Notibus Panis, Fagiolino chissà dov'è e chissà se ci sarà, e poi Apostasia a chiudere. Comunque insomma, quello che viene buono in questo periodo del, del palinsesto della radio. Un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati centri di detenzione per migranti. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, daje! Let it begin.